Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune brevi informazioni di servizio. Innanzitutto il sito radio24.it, dal quale potrete scaricare tutte le puntate, riascoltarle con calma, dialogare anche con i giornalisti che hanno un blog, il mio lo conoscete, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate anche sull'home page del Sole 24 Ore. Seconda informazione di servizio, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Oggi parliamo di una cosa molto interessante, qualcosa sulla quale soprattutto nel nord Europa da tempo hanno scommesso, possiamo quasi dire che hanno creato spesso delle città a misura di due ruote di biciclette. Alcune settimane fa Legambiente ha stilato una classifica, ne ha parlato diffusamente 7 del Corriere della Sera, una classifica sulle città che hanno più o meno reti di piste ciclabili. Poi tutti i giornali locali ovviamente hanno ripreso abbondantemente la notizia. Io davanti a me ad esempio il Gazzettino di Venezia, che ne ha parlato lunedì 10 maggio, tutti mettono in evidenza, e questo è molto importante, che aumentano i percorsi ciclabili. Ad esempio nel nord-est, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in 5 anni sono aumentati del 100%. Molti di noi li percorrono questi tratti ciclabili, a volte sorridiamo anche perché magari si interrompono di fronte a strade dove poi la circolazione impazzisce, ma è importante il segno della presenza. In questo ovviamente ci sono anche delle piccole oasi, diciamo così, di punti da chiarire. Mi spiego. Legambiente Campania è soddisfatto del lavoro che si sta facendo, ha messo in evidenza alcuni passi in avanti, ma rimane un po' qualcosa da chiarire sulla città di Salerno. Salerno, voi sapete che negli ultimi anni ha conquistato le pagine dei giornali di mezzo mondo, devo dire, per la rivoluzione che è stato in grado di assicurare nel rispetto, diciamo così, dello sviluppo del territorio stesso e il rispetto dell'ambiente, motivo per il quale divento sfizioso di parlare di Salerno e di questa polemica che Legambiente Campania, è una dialettica costruttiva, ricordiamocelo sempre, accende su Salerno. E noi ne vogliamo capire di più, e per capire di più abbiamo chiamato chi? Ma un nostro vecchio amico, Michele Buonomo, referente e presidente di Legambiente Campania. Buongiorno. Buongiorno, ciao Roberto, salve a tutti i radioascoltatori. E buongiorno a Gerardo Calabrese, che è assessore comunale all'ambiente proprio del comune di Salerno. Buongiorno Calabrese. Buongiorno a chi ci ascolta, a lei e un saluto a Michele Buonomo. Allora, Buonomo, partiamo proprio da lei. Che cosa succede a Salerno? Ce lo spieghi. Sì, Salerno è al centro di una, possiamo dire, capoluogo, oltre che politico-amministrativo, anche di una pianura che offrirebbe la possibilità di spostarsi in bicicletta all'interno della città stessa, ma anche verso sud, verso Pestum, verso la stupenda area archeologica e alla piana del Sele. Purtroppo però Salerno è stata sempre refrattaria ai progetti di bike sharing o di noleggio bici, intendo, di una pista ciclabile degna di questo nome, e di progetti che favorissero lo spostamento in bicicletta. Ecco, però noi, Salerno, abbiamo proposto alcuni anni fa a un predecessore di Gerardo Calabrese, l'attuale assessore, un progettino molto semplice che poi alcuni anni dopo, lo dico senza falsa modestia, è stato attuato pari pari da città come Parigi, Barcellona o in Italia del Sud da Bari. Ecco, però Salerno qualche tratto ciclabile ce l'avrà, Buonomo, oppure no? Ma veramente poca roba, e non è necessario avere un segmento di pista ciclabile. La pista ciclabile deve avere un senso, una funzionalità. Certo. Non possono arrivare dal cielo su una bicicletta e calasse su dei pezzi di pista ciclabile. È necessario avere dei percorsi protetti che consentano a tutti di usufruire delle piste. Assolutamente, ci vuole un percorso logico, altrimenti accade come accade dalle mie parti, dove io abito, non vi dico dove perché comunque ha poca importanza e soprattutto non c'è interlocuzione con gli amministratori, dove c'è una splendida pista ciclabile di circa un chilometro che poi alla fine termina di fronte ad un centro commerciale a 500 metri da un centro commerciale. Io sfido chiunque ad immettersi con sicurezza e garanzia poi in quel traffico caotico con una bicicletta, si corre il rischio di essere travolti. Allora, abbiamo sentito, come dire, questa denuncia pacata, questa polemica dialettica di Buonomo, ma insomma, Calabrese, perché non vi piacciono le due ruote? Perché osteggiate questi progetti? Io ovviamente, come dire, a me piace scherzare con gli ospiti, quindi la mia è una provocazione. Che cos'è che non vi piace delle due ruote, Calabrese? Ma non è che non ci piacciono le due ruote, è vero però quello che dice Michele Buonomo, nel senso che a Salerno negli anni non si è investito molto su questo tipo di mobilità, un po' per difficoltà anche dovute a come si è sviluppata la città negli anni. Noi a Salerno abbiamo due tratti di pista ciclabile, praticamente uno proprio sul centro della città e sul lungomare Trieste, che si interrompe poi più avanti dove c'è Piazza della Concordia e il lungomare Tafuri, per poi riprendere più avanti sul lungomare Colombo. Lì abbiamo in effetti una strozzatura proprio della sede stradale, quindi c'è questa interruzione. Interrompo soltanto un attimo, ma per dare l'opportunità bene di spiegare ciò che appunto si appresta a dire, cioè fatti e non chiacchiere, cioè che cosa la giunta e comunque il consiglio, la città di Salerno ha di spendibile, di concretamente spendibile in termini di progetti e di risorse finanziarie per venire incontro a quel bisogno e a quella necessità di rendere Salerno una città in pianura perfettamente attrezzata con piste ciclabili. Ci racconti però, ecco, cose concrete che voi andrete a fare. Salerno è alle porte, diciamo, di una pianura, nel senso che una parte della città è schiacciata tra il mare e la collina, quindi con una pendenza elevata. Certo. Non a caso le piste ciclabili realizzate per il passato sono lungo la linea di costa, appunto da lì poi ci si potrebbe congiungere con una pista provinciale che collega fino a Pestum. Il problema vero sono le risorse finanziarie, nel senso che noi abbiamo bandito un concorso internazionale di idee proprio per la riqualificazione di tutto il litorale del comune di Salerno. Il problema sono le risorse finanziarie, per la verità. Questo attualmente, diciamo, è la difficoltà principale. Ho capito. Ecco, io allora vorrei chiedere a Buonomo, atteso che purtroppo il problema di risorse finanziarie c'è per tutti i comuni, c'è per tutta Italia e non solo. Lei prima parlava di progetti semplici che sono stati presi pari da altre città. Allora, bisogna attendere queste risorse o intanto nel frattempo qualcosa è possibile fare, anche grazie al contributo di Legambiente Campania? Prego, Buonomo. Guardi, si può fare tantissimo. Allora, innanzitutto bisogna sfatare la difficoltà della città impervia, perché io sono stato personalmente a Seattle, che si inerpica su una collina, è molto più difficoltosa di Salerno. Ebbene, a Seattle la gente va in bicicletta. Perché? Perché è stato creato un vero e proprio reticolo ed un sistema, perché guai a pensare che la bici di per sé possa risolvere i problemi di mobilità senza un'integrazione con gli altri mezzi. Bisogna ripensare ad una mobilità e che sia sostenibile, cosa che purtroppo il sindaco di Salerno non ha voluto mai prendere in considerazione. Io sono stato facile profeta alcuni anni fa, lei Galullo lo ricorderà perché ne abbiamo parlato, nel dire che Salerno aveva le carte in regola per diventare una città all'avanguardia per la raccolta differenziata. Assolutamente sì. Ed è stato così. Allora, io ho detto al sindaco, se lei vuole passare alla storia deve però fare uno sforzo per rendere la città sostenibile da tutti i punti di vista. Certo. Soprattutto dal punto di vista della mobilità. Assolutamente. E allora noi, attraverso questa puntata, attraverso questo dialogo, rilanciamo questa palla nelle mani del sindaco di Salerno, il suo assessore all'ambiente Gerardo Calabrese, che sarà il nostro ospite e che ringrazio, sicuramente se ne farà portavoce, buon uomo, ringrazio anche lui, continuerà a vigilare. Noi torneremo su questo tema, quindi vedremo nei prossimi mesi che cosa sarà successo. Io nel ringraziare Filippo Aureggi in regia, Elisabetta Fusconi in studio, do a tutti voi appuntamento in edicola. Sapete, c'è il mio libro Economia Criminale, che per un mese sarà venduto in edicola con il Sole 24 Ore, quindi vi invito a leggerlo, perché racconterò molte storie, racconto molte storie di capitali sporchi e società inquinate, e visto che si parla d'ambiente vi ringrazio, vi auguro una buona giornata.